Il tic tac dell'orologio scandisce il tempo. Sappiamo che il tempo avanza, ma a noi non interessa perché è tanto bello restare così senza far niente. Che cos'è il niente? Che siamo noi. Vive Dio, vive Dio, vive Dio, vive Dio, vive Dio, vive Dio, vive Dio, vive Dio. Questo momento di riposo ci fa vivere il nulla. Questa è la nostra realtà, il niente che vive nel vuoto, ma questo vuoto è pieno di Dio, perciò il niente. Che cos'è il niente? Che siamo noi. Vive Dio, vive Dio, vive Dio, vive Dio, vive Dio, vive Dio, vive Dio, vive Dio. Si sente un calore immenso e l'amore di Dio che ci avvolge. E ci si sente fonte del mondo, una realtà che non è la nostra, ma che possiamo raggiungere uniti all'amore. Che cos'è l'amore? Dio è amore. Vive Dio, vive Dio, vive Dio, vive Dio, vive Dio, vive Dio.